Radio 24 presenta Il Sabato del Villaggio. Liberi consigli per il fine settimana. Sono proprio le 15 in punto, quindi ci siamo con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio, lo sapete, è il nostro villaggio globale. Questa è la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri. Insomma, i nostri liberi consigli per il fine settimana. E nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube insieme a Daniele Bellasio per tutta l'attualità della rete e dalla rete. Io in queste tre ore di diretta vi tengo compagnia, ma anche voi tenetemi compagnia. Ci sono due strumenti rapidissimi per contattarci: l'SMS 349-238-6666 e il mio account di Twitter @MartaCagnola. L'hashtag, sempre per chi usa Twitter, il sabato del villaggio è un po' lungo e quindi usiamo le iniziali cancelletto ISDV. Ma scopriamo insieme i temi della prima ora che passeremo insieme: sport e passioni. Con noi due grandi campioni che da sportivi sono diventati anche personaggi TV, Andrea Lo Cicero e Gianluca Vialli. Ovviamente le tecnologie con Enrico Pagliarini. Questa volta parliamo ancora di come conservare con cura i propri dati. Tanto, tanto cinema, tutte le novità del weekend, ma subito arrivano i supereroi. Sì, chiunque se ne sarà degno possiederà il potere, come no? È un trucco. No, è molto di più, amico mio. Se lo alzo posso regnare su Asgard? Sì, certo. Sarò giusto ma fermamente spietato. Torno subito. Stiamo tirando? Sei in squadra con me? La rappresento, tira! Va bene, forza! Dai, capitano! Niente. Oh no, è una domanda a cui non serve risposta. Il manico ha un'incisione. Chiunque abbia le impronte di Thor, credo sia la traduzione letterale. Sì, beh, una teoria molto interessante. Io ne ho una più semplice. Nessuno di voi è degno. No. Davvero? No, dominato il botteghino. Gli appassionati l'hanno riconosciuto subito perché siamo in tema di supereroi. Sono gli Avengers Age of Ultron, uscito il 22 aprile al cinema. Il botteghino è conquistato, ma non possono che combinare tutto questo dei supereroi messi tutti insieme, i grandi supereroi della Marvel in questo nuovo capitolo degli Avengers. E cerchiamo di capirne di più con un super esperto, anche perché ha fatto una recensione che a me è piaciuta da morire. Torna al Sabato del Villaggio un nostro amico del sabato, il critico cinematografico Gabriele Niola. Ciao Gabriele. Ciao Marta. Eccolo qua, adesso io twitto anche la tua recensione che mi è piaciuta particolarmente. Secondo te, ti faccio subito la domanda, se la possono anche leggere con calma gli ascoltatori, subito la domanda da 10 milioni di dollari: perché questi supereroi sono così sempre immortali, sempre amati dal pubblico? Perché quello che succede è che in questi anni, l'abbiamo notato, non solo ne sono arrivati tanti di supereroi, tanti film di supereroi con tanti supereroi diversi, ma specialmente questi qui, cioè quelli della Marvel, che sono Hulk, Thor, Capitan America, Iron Man, che hanno tutti quanti il loro film a sé dedicato, hanno costruito negli anni un racconto più grande, che funziona un po' come le serie TV, cioè che ogni film funziona un po' come un episodio, racconta la propria storia, ma intanto porta un pochino in avanti una storia più grande che proseguirà un pochino nel film dopo, fino ad arrivare ad Avengers. Il primo Avengers chiudeva un ciclo di storie. Poi ci sono stati degli altri film, Iron Man 3, Thor 2, eccetera, eccetera, che hanno portato a questo secondo Avengers. Quindi alla fine un po' il loro successo è un po' che ti conquistano e ti avvincono in un racconto grande, e un po' appunto come le serie, che ci sono degli episodi che funzionano di più e degli episodi che funzionano di meno, ma non importa, la serie comunque la si guarda tutta perché quello che importa è il grande racconto. Allora, voglio cominciare a leggere le prime righe della tua recensione sul blog Sono vivo e non ho più paura.blogspot.it. Comunque ve lo twitto se non riuscite a ricordarvelo tutto. Joss Whedon l'ha fatto di nuovo. Sembrava irripetibile l'equilibrio raggiunto da Avengers tra spensierata superficialità, lampi di intimismo sconosciuti al cinema da supereroi, ironia ricercata e ampie pennellate di azione a grana grossa e potenza distruttiva digitale. Non vado avanti perché te lo chiedo, ma Joss Whedon ce l'ha fatta di nuovo? Porca miseria se ce l'ha fatta. Allora, intanto ti dico, Gabriele, che di là dal vetro in regia c'è la nostra Valeria Bernardi, che non è una fan di più, quindi era lì che aspettava la tua risposta. Quindi la risposta è porca la miseria se ce l'ha fatta, ok? Guarda, la cosa che io ho visto il primo Avengers è rimasto molto stupito, perché si è trovato di fronte a praticamente il film di intrattenimento perfetto, quello che negli anni Ottanta poteva essere Ritorno al Futuro o Indiana Jones, insomma questi film che sono di puro entertainment, non hanno nessuna pretesa più elevata, ma sono perfetti, fanno una narrazione perfetta mescolando perfettamente quel po' di umorismo che serve, quel po' di tensione necessaria ma senza esagerare, e magari questa è un'ambizione che è difficilissima, però ogni tanto si riescono, un pizzico di sentimento, di qualcosa insomma che sia anche un po' emozionante. Secondo me quello che fanno sia il primo Avengers che questo nuovo è ancora più complicato di quei film là, senza voler andare a toccare dei mostri sacri, però voi vi rendete conto che vanno maneggiati 6 personaggi protagonisti, ognuno interpretato da un attore che è grosso e quindi richiede del tempo, cioè non è che si può mettere Robert Downey Jr. in un angolo, cioè adesso questo film resi di meno, chiaramente no, tutti quanti hanno la loro storia, deve essere portata avanti, bisogna chiudere le storie di tutti i film che sono venuti prima, quindi arrivare ad una conclusione e contemporaneamente aprire piano piano, cioè dare un indizio delle storie che verranno, perché questo, di certo questo film non chiude la saga dei film di supereroi, ma ci sta tutta un'altra fase, per cui già vediamo un po' delle trame che verranno, e poi effettivamente raccontare la storia del film, cioè c'è tutto, c'è un nemico particolare, succedono delle cose, addirittura qui si può vedere che è molto bello, poi siccome i vari film di supereroi li fanno registi e scrittori diversi, questi di Avengers li fa sempre Joss Whedon, e lui ha proprio le sue simpatie. Cioè, ci sono alcuni personaggi che non è che gli piacciono tanto e un pochino li mette di lato, ci sono alcuni, come dire, Thor gli fa un po' di ridicolo, gli dà tutte le battutine divertenti, gli fa fare tutte le scene un po' ridicole per ridere, invece gli piace tanto Hulk, che è un personaggio molto particolare, distrattato dai suoi film, mentre invece in questi qua di Avengers ha delle parti bellissime. Gabriele, hai citato il regista che è Joss Whedon, nato in un qualche modo dalla TV, perché era diventato famoso con Buffy l'ammazza dei vampiri, prima al cinema e poi nella serie televisiva che è diventata un vero fenomeno di culto. Ha fatto tante cose in TV, ha fatto gli Avengers e io devo dirti la verità, sono stata molto emozionata questa settimana quando sono andata a incontrarlo, a intervistarlo, Joss Whedon di persona. Io ero molto agitata, è stato veramente carino, veramente simpatico come i grandi di Hollywood. La prima cosa che gli ho chiesto è stata: come fa, come ha fatto a conservare il vero spirito Marvel? Ecco come ha risposto Joss Whedon. Well, the real Marvel spirit is anarchy, is, you know, just be as funny. Il vero spirito Marvel è anarchico, divertente, appassionato, esagerato, surreale. Alla Marvel piace tutto. Ordinano tutto quello che c'è nel menù. Ed è proprio così che mi piace lavorare. They like everything. They order everything on the menu, and that's the way I like to work. Il nostro mondo ha ancora bisogno di supereroi? Yes, I think it does, but it is a sì, credo che il nostro mondo abbia ancora bisogno di supereroi. Credo che sia una domanda molto pertinente, perché i supereroi possono ispirare le persone. Ma quando penso a un supereroe, penso a persone come Malala Yousafzai, persone che danno agli altri la forza di difendere i propri diritti. Abbiamo bisogno di persone che siano il volto del cambiamento. L'idea che ci siano degli uomini fortissimi, pronti a risolvere tutti i nostri problemi, dicendoci quello che dobbiamo fare, è un'idea pericolosa. Is also a very dangerous one. So I think the fun of this movie is. Credo che in questo film, alla fine, attraverso Ultron, ci si ponga la domanda: abbiamo ancora bisogno di supereroi? E a quel punto si lasciano gli Avengers ricordare cosa sia davvero essere un eroe. Non è sconfiggere il cattivo, ma difendere le persone. What it is to be a hero, that it's not about beating up the bad guy, that it's about the people. Le donne sono i veri supereroi? Are women real superheroes? Yes, but most of them are in disguise. Se le donne sono i veri supereroi? Sì, certo, molte lo sono sotto mentite spoglie. Nessuno lo sa davvero. Sono praticamente un intero genere di Clark Kent. Per quanto riguarda i film, in questo, e spero in sempre più film in futuro, combatteranno l'una accanto all'altra. E anche il pubblico potrà riconoscerle senza dubbio come eroi. Beh, in effetti Joss Whedon è anche famoso per questi suoi personaggi di donne straordinariamente forti. Qual è il personaggio che secondo te ha raccontato meglio, Gabriele? Tu intendi nella saga di Avengers? Sì, sì. Beh, sicuramente, come dici tu, appunto, una donna, cioè il personaggio di Vedova Nera che è interpretato da Scarlett Johansson, che se ci pensate è un personaggio minore perché non ha un film dedicato a se stessa rispetto a Iron Man o a Capitan America, però che invece lui eleva a personaggio maggiore, gli dà la parte di trama migliore, cioè, che è quella assieme ad Hulk, è una storia fantastica, chiaramente subito La Bella e la Bestia, immediatamente si va a parlare da quelle parti, però è fatta chiaramente molto bene perché l'ha scritta lui ed è un personaggio molto complicato. Vi dico pure una cosa che ho scoperto solamente dopo che ho visto il film e me ne sono pentito: si vedono nel film degli aneddoti della memoria del personaggio di Scarlett Johansson di quando lei era piccola in Russia, e c'è in un ruolo che compare pochi secondi sullo schermo Julie Delpy, l'attrice francese della trilogia Prima di Mezzanotte, Prima dell'Alba. È veramente un secondo, bisogna stare attenti. Dici come fare per individuarla allora? In quel momento là lei è l'istitutrice, è la, okay, quella che le insegna balletto. Ah, va bene, quindi bisogna aguzzare l'occhio. Devo farti una domanda difficilissima. In questi casi, stai pronto, in questi casi ci si chiede sempre: si possono portare i bambini e i ragazzi? Cioè, tu da che età lo faresti vedere questo film? Sì, guarda, sì. Ti posso dire perché. Non ho neanche bisogno di dare motivazione, dire cose. La Marvel è stata comprata dalla Disney, quindi questo è un film Disney. Ecco, sì. Quindi anche ragazzini... Anche a 2 anni, però magari a 2 anni non se lo godono, non gli piace, però lo possono vedere, insomma, se sono degli appassionati di 2 anni comunque possono vederlo. Poi devo dire che Joss Whedon l'ha spiegato bene, supereroi che non usano la forza per combattersi o per dimostrare la loro forza, ma c'è sempre comunque un insegnamento, un po' c'è nei supereroi in generale, un po' c'è nella Disney, qua tutto insieme. Eh sì, perché comunque loro rappresentano le cose giuste, stanno tutto il film a interrogarsi quale sia la maniera più corretta di fare il loro lavoro. Loro volendo, no, potrebbero semplicemente prendere, andare e fare quelle che devono fare menando le mani, teoricamente. Però in realtà l'idea che c'è dietro è che invece ci deve essere un'idea, un pensiero dietro su come fare questa cosa, come, se c'è una giustizia, qual è la maniera più giusta di applicarla. Loro tra l'altro, tra di loro, gli eroi non sono molto d'accordo l'uno con l'altro, che è una delle trame che poi vedremo nei prossimi film, andranno avanti, insomma, litigheranno sempre di più, però è un aspetto molto molto interessante. E a proposito di quello che dici tu, che non solo, come dire, azione e cose, ma anche una certa idea dietro, è anche molto bello questa idea che ha Whedon di non fargli solamente menare le mani, ma fargli molto nelle sequenze di azione loro collaborano sempre, si passano come la mano, e questo dà al film una personalità, non è un film come gli altri. Bene, insomma, non so quanti abbiamo convinto ad andare a vedere Avengers, perché secondo me, visti i dati, ci stanno già andando tutti, nel senso, casomai possono tornare a vederlo perché sta andando bene. Gabriele, grazie per essere stato con noi. Gabriele Niola, io vi ho twittato la sua recensione che è apparsa sul blog sonovivoenonhopiupaura.blogspot.it, ma non solo lo potete leggere su molte testate, il suo account di Twitter per seguirlo è @ G. Niola. Grazie Gabriele per essere stato con noi, a presto. Grazie a te, ciao. Grazie Gabriele, noi ci ritroviamo tra pochissimo perché adesso dobbiamo dare la linea alle agli aggiornamenti sulle strade, autostrade, perché immagino che insomma il 25 aprile molti si staranno muovendo, ma tra poco parliamo di televisione, di passioni e parliamo di sportivi. BMW Freeride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Il sabato del villaggio. Eccoci ancora con i nostri liberi consigli per il fine settimana fino alle 18, insieme con il sabato del villaggio. Grazie intanto a Francesca da Verona che ha mandato un sms molto carino al 349-238-6666 perché dice che il sabato del villaggio la mette sempre di buon umore. E questa è la mia missione, passare il sabato pomeriggio per mettervi, ma anche mettermi di buon umore, perché no? 349-238-6666, il numero per i vostri messaggi in diretta, chiocciola Marta Cagnoli. Per tenerci in contatto via Twitter, vi ho appena twittato la recensione di Avengers di Gabriele Niola che è stato con noi. Adesso parliamo, ve lo dicevo, di televisione, passioni e anche parliamo di sport, perché parliamo di un campione che però ha una passione molto, molto particolare. Dopo aver portato in gloria la nazionale italiana di rugby, è pronto a scendere ancora in campo per una nuova sfida. Grazie alla sua esperienza di capitano e al suo pollice verde, guiderà una squadra di giardinieri per aiutare le persone in difficoltà con il proprio giardino. Il suo obiettivo sarà trasformare uno spazio abbandonato a se stesso in un luogo magico e accogliente. Riuscirà il barone a fare meta anche stavolta? Lui è il vero gigante buono dei giardini. Beh, in realtà è sempre stato il gigante buono del rugby, però adesso ha trovato una nuova dimensione. Buongiorno ad Andrea Lo Cicero. Buongiorno. Io ti devo chiedere subito, al di là del fatto che il rugby si gioca su un prato, su un campo, come metti d'accordo queste due passioni? Beh, prima nel campo ero io a distruggere il prato, infatti ci avevamo mille critiche. Adesso cerco io di, come dire, risistemare un prato, o quantomeno farlo diventare un prato. Io devo dire che il verde è, come dire, è rimasto nel mio cuore. Mi piace come colore, ci ho giocato mille volte in campi verdi e adesso mi piace, insomma, portare il verde nei giardini privati. Ma tu come ti sei avvicinato all'arte del giardinaggio? Ma più che all'arte del giardinaggio, io vivo in un'azienda agricola con le mie stupende asine, la mia compagna, e con le mie caprette tibetane, più galline, cani, gatti e quant'altro. Hai detto prima le asine e poi la compagna, lo sai che hai citato prima? No, ma perché le asine sono degli animali talmente nobili, non che la mia compagna non lo sia. Ci siamo infilati. Però stavano andando in via estinzione. No. La mia compagna non va in via estinzione. Quindi insomma c'è questo e sono attorniato da donne perché sono tutte femmine. Quindi beato fra le donne. Andrea, io fuori onda ti raccontavo che mi ero appassionata in particolare nella prima stagione di Giardini da Incubo, una puntata che tu avevi fatto con i ragazzi. Avevi risistemato il giardino di una scuola e questi ragazzi sembravano stupiti dall'incontro con le piante, come se fosse qualcosa, un rapporto da ritrovare, da riscoprire. Allora, intanto ti dico una cosa, un piccolo cenno storico. Quello era un polmone verde di Roma, era un sanatorio, ovvero era stato creato per bambini che avevano problemi respiratori, quindi un polmone verde per questi bambini. Poi, sempre rimasto comunale, gli avevano fatto questo giardino con dei disegni insomma geometrici molto belli. Oggi quello che è successo è che nessuno se ne prende più cura, quindi i ragazzi non avevano più quel rapporto col verde, ma avevano un rapporto col selvaggio, e quindi hanno chiamato me e siamo riusciti insieme a fare questo giardino, è venuto stupendo, poi esperienza unica con i bimbi. Sempre spirito di squadra comunque, questo lo trasmetti sempre? Sempre, perché oggi è vero che noi siamo dei singoli, siamo persone che pensano individualmente e che possono dare al gruppo un qualcosa di arricchimento. Quindi chi pensa individualmente, vuole risolvere i problemi individualmente, ha già perso. Quindi il lavoro di squadra ancora di più oggi è fondamentale, perché siamo in un momento difficile per la cultura, per la storia nuova che dovremmo creare, invece niente, si sente più una cronaca nera che situazioni belle. Quindi il lavoro di squadra dobbiamo insegnarlo ai piccoli. Ma a quelli come me, che non è che non hanno il pollice verde, hanno direttamente il pollice verso, cioè io proprio non... Ti devo chiedere qualche consiglio. Da cosa si può iniziare? Ma prima di tutto andare in un bel vivaio e, come dire, arricchirsi gli occhi di colori e di profumi. Poi iniziare a chiedere informazioni ai vivaisti, ai botanici, a persone che conoscono le piante. Poi magari comprarsi qualche rivista che ti può spiegare in maniera basica come funziona questo meccanismo del verde, delle piante. E poi fare dei tentativi, pian pianino, come si faceva a scuola, prendere l'ovatta, mettere il semino, innaffiarlo tutti i giorni, vedere se cresce qualcosa. E da là piano piano si capiscono i meccanismi e si va avanti. Tutto si deve iniziare in maniera didattica e per piacere. Ah, vero, verissimo. Non sai quante lenticchie ho fatto seminare, ho seminato sull'ovatta. Quello anch'io. Andrea, allora, l'appuntamento è tutti i giorni alle 19.45 su Sky 1 HD, che così abbiamo la sensazione di respirare anche noi, di stare un po' nei giardini. Grazie ad Andrea. Grazie Lo Cicero, rugby e giardini, cosa vogliamo di più, due passioni bellissime. Grazie Andrea, a presto. Grazie mille, ciao. Campione del rugby e la passione per i giardini, è un campione del calcio, anche lui in televisione, per parlare di calcio però in maniera molto particolare. Vi ricordate quando la Serie A era il campionato più bello del mondo? I grandi campioni giocavano da noi, il logo degli sponsor si affacciava sulle maglie. Il nostro calcio era ricco e felice. L'età dell'oro, i mitici anni Ottanta. Siamo stati l'ombelico del football fino all'inizio del nuovo secolo, ma da tempo non lo siamo più. A corto di investimenti, progetti e superstar, ci siamo ritrovati nelle retrovie dell'elite europea ad ammirare i campioni e le vittorie degli altri. Come è stato possibile? Lo avete riconosciuto, Gianluca Vialli. Lo abbiamo incontrato alla presentazione della seconda stagione di Codice Rosso. Da questa sera su Sky Sport 1 HD e Sky Calcio 1 HD, al termine dello studio post partita di Inter Roma. Una trasmissione che parla di calcio, ma attraverso il calcio del nostro mondo. Perché il calcio, abbiamo chiesto a Gianluca, è lo specchio del nostro paese? Sì. Assolutamente sì, ne è, se vogliamo, una sorta di specchio, no? E quindi molto spesso quello che succede a livello così culturale, a livello di mentalità nel nostro paese, poi succede anche, finisce per succedere anche nel calcio. E siccome sono tante le cose che dovrebbero cambiare per migliorare questo sport meraviglioso, che poi è anche un prodotto, è un'industria che muove un sacco di interessi, noi ci siamo messi nei panni di coloro che vogliono fare un po' da guardiani di questo sport meraviglioso, ma anche con un atteggiamento propositivo per cambiare questo sport prima che sia troppo tardi. Inevitabilmente il tema più delicato è quello dell'immigrazione, anche alla luce dei fatti recenti di cronaca. Come avete lavorato su questo tema e quanto secondo te il calcio può aiutare nella mentalità degli italiani l'idea dell'integrazione? Tantissimo, il calcio può aiutare tantissimo. Io credo che il nostro non sia un paese razzista, ma è un paese ancora poco abituato alla multirazzialità, e quindi credo che sia molto più facile spiegarlo a un bambino facendogli vedere la squadra azzurra nella quale gioca un ragazzo di colore, piuttosto che fare tanti altri ragionamenti. Quindi il calcio può essere una vetrina importante per spiegare che è giusto, bisogna anche anzi incoraggiare questa collisione di conoscenze, che cioè, attraverso la mescolanza di colore, di razze, di culture, si può soltanto crescere. E poi insomma, anche egoisticamente, se parliamo per un discorso tecnico, tu guardi la Germania che ha vinto i mondiali, gli ultimi mondiali, è una Germania diversa rispetto a quella di 30 anni fa, è una Germania dove ci sono giocatori di origine turca, di origine africana, tedeschi, dell'est, dell'ovest, e quindi insomma attraverso questo miscuglio la squadra è cresciuta, tutti si sentono tedeschi, però tutti portano qualcosa di diverso, e se c'è un bravo cuoco che mette insieme questi ingredienti, poi le cose anche dal punto di vista sportivo vanno molto meglio. Calcio di ieri e calcio di oggi, uno dei temi di Codice Rosso è stato quello del calciatore che diventa un idolo, sì, e dell'importanza mediatica del, sì, ruolo del calciatore. Tu che hai rivestito tutti i ruoli nel mondo del calcio, come lo vivi questo aspetto? Com'è diventato oggi il calciatore? Dal mio punto di vista, una volta era un pochino sbagliato cercare di dare al calciatore il ruolo anche di esempio. Perché comunque siamo eravamo ragazzi giovani, immaturi, con mille responsabilità, una pressione addosso incredibile, facendo uno sport in cui c'è il contatto, c'è insomma il sangue che ti bolle nelle vene, c'è un pubblico che ti in un certo senso contagia con i suoi atteggiamenti, e quindi secondo me sarebbe stato meglio se però una volta non era giusto che i giocatori interpretassero anche questo ruolo. Oggi secondo me lo è, perché i calciatori hanno rivisto un po' quella che è la loro, cioè sono diventati un po' delle piccole aziende, e quindi lavorano loro stessi su un brand che devono in un qualche senso promuovere e aumentare, e quindi se hai questo tipo di atteggiamenti, secondo me sei abbastanza maturo per capire che di conseguenza devi anche essere portatore di un messaggio positivo, e quindi devi ricordare che quando ti guardano è chiaro che costruisci e migliori il tuo brand, ma devi anche lanciare un segnale positivo nei confronti dei ragazzi più giovani, che poi io ho avuto occasione di insomma frequentare con questa registrazione, con altre cose che faccio per Sky, e devo dire che vedo, ed è sbalorditivo come questi ragazzi giovani imitano nel bene e nel male gli atteggiamenti dei nostri grandi campioni, che poi diventano anche degli eroi. Volevo rubarti ancora un minuto per farti un'ultima domanda relativa a un tema che è veramente un tabù, quello del calcio e dell'omosessualità. È un tabù, e credo che ve ne siate resi conto anche voi affrontandolo per questa trasmissione, eppure il calcio anche qui un'altra volta potrebbe aiutare a creare una coscienza un po' più libera e aperta. Ma potrebbe aiutare a sdoganare questo discorso così importante legato alla tua sessualità, e se fai l'attore va bene, se fai il calciatore non va bene, se fai il politico. Quindi io spero che, come per il discorso razziale, anche per quello legato alla sessualità, il calcio possa essere, diciamo, un pioniere, e quindi aiutare a sdrammatizzare, a considerare la sessualità un discorso non importante rispetto a quello invece tecnico, tattico e sportivo. Poi sarebbe bello che un giorno qualcuno avesse il coraggio di, insomma, di parlarne con grande serenità e grande, perché oramai credo che siamo pronti e siamo maturi. Il sabato del villaggio. E ci ritroviamo con la seconda parte della prima ora del sabato pomeriggio di Radio 24, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, libri, tecnologie. Io sento una musica, ma non so come, ma Valeria, sei tu in regia che stai mandando? Sono uscito dalla botola. Allora, adesso dico la verità, Enrico Pagliarini è con noi. Enrico arriva in studio sempre all'ultimo momento. Ma soprattutto non ci accorgiamo. Adesso mi ha detto che lui ha una botola che lo porta direttamente nello studio. Perché noi fuori ci chiediamo: ma è arrivato Enrico Pagliarini? Era già in studio. Io sono qua. Sì, sì, ma ero io qua, sono ma anche ero qua. Cioè, dietro. Sono uscita. Allora, Enrico, facciamola per bene, perché io ho trovato una musica per introdurre il tema di oggi, che è stato caldeggiato anche dagli ascoltatori che ci hanno scritto un sacco di messaggi al 349-238-6666. Non ti ho potuto chiedere tutto subito perché era già finito il nostro spazio sabato scorso, e che hanno anche interagito con Twitter al mio account @MartaCagnola. Chissà di cosa parleremo oggi con Enrico Pagliarini. Questa canzone ha 50 anni, del 65. La conosci? Sai come si intitola? Beh, sono i Rolling Stones, e sì, si capisce. Loro più o meno avevo capito, sì. Get off my cloud. Ah, perché togliti dai piedi potrebbe essere. Eh sì, però, però potremmo dire togliti dalla mia cloud. Bella, perché la scorsa settimana abbiamo parlato di un tema sensibilissimo: archiviare i dati in un backup, cioè in un archivio di riserva, per non perderli. Perché quando sento dire mi hanno rubato il PC, mi si è rotto il PC e ho perso tutto, mi piange il cuore. Sì. La scorsa settimana abbiamo parlato di hard disk esterni. Sì. Spese non enormi, però ottimo risultato per, insomma, archiviamo e conserviamo quello a cui teniamo. Esatto, diciamo, questa settimana, delle soluzioni. Ecco, una delle soluzioni. Però, visto che abbiamo ascoltato Get Off My Cloud, che è ancora in sottofondo, questa volta immagino parleremo della cloud. Sì, allora, un'altra delle soluzioni, ma bisogna avere internet, visto che non tutti hanno internet, sottolineo questo. Bisogna avere internet. Ecco, un'altra delle soluzioni è avere i nostri dati salvati su internet. Mm-hmm. È stata definita la cloud, intendendo dire che noi mandiamo i dati da qualche parte, non sappiamo bene dove, come sulle che mandassero con un palloncino sulle nuvole, non sappiamo bene, però abbiamo il filo del nostro palloncino, e quando abbiamo bisogno dei dati tiriamo il filo e recuperiamo i nostri dati. Quando parliamo di dati parliamo di fotografie, video, testi che noi, c'è gente che scrive un sacco di cose, prende appunti, fa schemi, che ne so, prende, tiene conto di quello che spende durante la settimana, tutti i documenti che noi facciamo col computer o con i tablet o anche con gli smartphone, le fotografie, insomma, molti le fanno con gli smartphone, tutti questi dati possono essere salvati anche in rete, senza saper di preciso dove, ma ci sono alcuni servizi. Allora, ne cito uno che è quello che secondo me è da preferire, che è famoso per chi usa internet, ma non è detto che sia famoso in assoluto. Certo. Si chiama Dropbox. Mi piace perché è indipendente. Allora, dovete sapere che quasi tutti i produttori, quindi Google con il suo Android, con i suoi tablet e smartphone Android, o tutti i servizi internet che usiamo col computer, Apple con iCloud, Microsoft con OneDrive, che sono i principali produttori di terminali e di software che usiamo sul computer, bene, tutti questi hanno la loro offerta cloud. Certo. Quindi c'è Google Drive, OneDrive di Microsoft, iCloud di Apple. Tutti hanno questa offerta. Quasi io tutti... devo dirti che mi trovo bene con iCloud, perché ho i dati sull'iPad e quindi li sincronizzo là. Però se uno non ha un device Apple, magari è comodo con un'altra cosa. Uno dei limiti di iCloud è che funziona solo con Apple, mentre gli altri che ho citato funzionano, sono cross device, come si dice, funzionano quante con parole tutti difficili. Allora, tutti questi servizi ci danno un po' di spazio gratis. Okay. Ah, tra parentesi, tu hai detto cross device, cioè che possono essere usati tutti i device. Sì. Ad esempio Dropbox è utile se si vogliono condividere con altre persone. Sì, allora, quasi tutti permettono di condividere, però Dropbox è da preferire perché intanto ha applicazioni per tutti. Quindi qualsiasi sia il nostro sistema operativo, c'è l'applicazione che noi possiamo installare. E poi è una terza parte, quindi se mai dovesse succedere qualche cosa, diciamo, è un modo anche per ripartire il rischio, no? Certo, potrebbe... Rischio di che tipo? Rischio che attacchino i sistemi, che possa succedere qualcosa. È molto vero che questi sistemi sono molto sicuri, garantiti, ci sono dei livelli di protezione molto molto elevati, però non si sa mai. Beh, ad esempio ci ricordiamo di qualche mese fa le foto di alcune celebrità che lì sono... non era un problema di sicurezza intrinseca dei sistemi, ma o comunque c'è un piccolissimo problemino, ma insomma una cosa abbastanza irrilevante. Diciamo che molte delle persone che hanno visto le loro foto messe in rete non avevano messo le password buone, perché se uno mette 1 2 3 4 5, esatto, io vedo ancora la gente data che di nascita e quella del matrimonio, allora vedo che c'è ancora gente che sblocca il telefono con 1111. Allora, no, cioè, allora te la cerchi. Allora lasciate la chiave attaccata alla porta della macchina. poi, vabbè, non ci sono più le serrature nelle macchine, però diciamo lasciate la porta, la chiave sulla porta di casa, e poi se vengono l'ho i ladri di chi vi lamenta, esatto, può succedere. Allora, che cosa ci permettono di fare questi servizi? Allora, primo, la cosa più facile è di archiviare anche in maniera automatica, ci sono degli automatismi, tutto quello che noi produciamo, quindi file di testo, fotografie, bla bla bla. E poi una cosa abbastanza utile, qui rispondiamo anche ad una delle domande degli ascoltatori, ci permettono di condividere documenti, file, foto, e in modo molto semplice. Allora, o condividiamo proprio una cartella, che ne so, io faccio la cartella Radio 24 e ci tengo cose che io e te magari dobbiamo condividere, anche se sul mio cloud, se io decido di condividerla, tu puoi accedere a quei dati e quindi ti posso anche telefonare e dire: guarda Marta, ho messo la scaletta dell'ultima puntata nella cartella, tu te la vai a prendere. E io posso entrare non nella tua, in tutta la cloud, ma in quella cartella. Quella cartellina precisa. Però se non volessi condividere addirittura tutta una cartella, io potrei anche decidere, che ne so, c'è una fotografia o un documento che io voglio condividere, posso mandarti via mail il link e tu ti vai a scaricare solo esattamente quella cosa che io ho deciso di condividere. Quindi è molto utile anche per scambiarsi. Quindi se io dovessi mandare un filmino della comunione, per dire una cosa che non è protetta da copyright, volevo dire un grosso file di grosse dimensioni e che non posso spedire via posta, io lo metto nella mia cloud, esatto, e autorizzo una persona precisa ad andarsela a prendere. Esattamente, esattamente. Allora, una cosa che va detta di questi sistemi è che quasi tutti ci danno un po' di spazio gratuito. Ecco, passiamo alla moneta. Ecco. Sì. Quasi tutti ci danno un po' di spazio gratuito. Devo dire che in questo scenario Dropbox è quella che ce ne dà forse meno, perché ci dà solo dipende dai punti di vista, 2 giga. Poi ci sono 1000 sistemi, sai, quei sistemi... Inviti gli amici, te lo aumentano, sì. Però, diciamo, livello base 2 giga, puoi aumentare, naturalmente pagando. Gli altri sistemi come OneDrive e Google Drive ti danno 15 giga, quindi sono molti di più. Però giusto per avere un'idea, visto che poi si paga per l'utilizzo che noi ne facciamo, possiamo scegliere vari tagli, però giusto per avere un'idea, tutti questi sistemi, almeno i più famosi, chiedono o 10 euro al mese per un tera, o ti fanno un po' di sconto, un centinaio di euro o dollari, tanto ormai dollaro e euro è la stessa cosa, ci sono anche quelli che ci fanno pagare in dollari, per un tera. Quindi è come comprare un hard disk di un tera, no? Anche un po' di più. Sì, un po' di più, effettivamente un po' di più, però in questo caso abbiamo la comodità di avere tutti i nostri dati ovunque noi ci troviamo, senza portarci dietro un hard disk esterno nello zainetto, nella borsetta o in tasca. E poi sicuramente maggiore sicurezza rispetto al nostro hard disk, perché è ovvio che il nostro hard disk è uno. Poi una cosa che ho detto la scorsa settimana sugli hard disk esterni, non vanno maltrattati, se li sballottiamo spesso sono comunque dentro all'hard disk c'è una parte in movimento, quindi quella parte se noi la sballottiamo molto e se si rompono sono veramente dolori. Sì, infatti la soluzione migliore sarebbe avere un bel hard disk con i nostri dati, dove non c'è internet o dove non ci vogliamo connettere, o quando, che ne so, abbiamo finito il nostro piano dati, abbiamo tutti i nostri dati a disposizione, e avere la stessa cosa anche nel cloud. Certo, se uno ha tutte e due le cose, costa un po', però... Costicchia, perché abbiamo detto un hard disk da... Però uno dovrebbe anche chiedersi quanto costa, anche se è difficile poi dare un prezzo, quanto costa perdere tutti i dati? Le fotografie, non dico dati importanti con magari numeri che insomma che hanno un valore intrinseco, ma anche dati emotivamente importanti, cioè i nostri ricordi, insomma, chiaramente quello è un problema. E quindi, certo, preoccuparsi di proteggere questi dati è comunque molto, molto importante, molto utile. Preoccuparsi e ricordarsi, di fare i backup. Abbiamo 40 secondi per dire che se uno non vuole imbattersi nel cloud e fare nulla di quello che abbiamo raccontato, WeTransfer. Ecco, per mandare i grossi file, come ci chiedeva un ascoltatore la scorsa settimana. Sicuro, ce ne sono mille, ce ne sono tantissimi di questi sistemi e servizi, però WeTransfer è molto famoso, molto noto, molto semplice, non richiede iscrizione. Io ti voglio mandare un file da 100 mega, benissimo, lo carico, ti arriva un'email con un link, tu clicchi su quell'email e ti scarichi il file. Basta per una volta, uno poi se lo può dimenticare senza iscrizioni, sempre senza pagare nulla. Allora, facile. Tra poco ci risentiamo perché voglio avere il consiglio della app. C'è la mania della settimana. La mania della settimana, sì, lo so, me l'ha fatta scaricare adesso, io ho paura di cascare anche in questa mania. Ci risentiamo tra pochissimo, sì. Ci risentiamo tra poco perché adesso abbiamo l'appuntamento con la situazione sulle strade. Il sabato del villaggio. Bryan Adams, Cloud Number 9. Mi sono divertita, parlavamo di cloud. Ci sono un sacco di canzoni sulle nuvole. Sì, in realtà Cloud Number 9 è un po' più il settimo cielo, eh? E quindi ancora una volta è una metafora. Abbiamo parlato di cloud, adesso invece Pagliarini non sta attento perché sta giocando. Sì, perché sono arrivata al livello 17. Il 17 è particolarmente difficile. È difficile, il livello 17. Sì. Allora, questa mattina ho provato questa app, che è un gioco, perché tutte le settimane vado a vedere le classifiche delle app più scaricate. Ci sono anche siti di terze parti che fanno vedere in tutto il mondo cosa sta succedendo. Allora, ho visto che in un sacco di paesi e in un sacco di sistemi operativi c'è questa AA. 2A. Allora, i produttori sono specializzati in giochi e tutte le loro app si chiamano così: FFTTTR, cioè due lettere. Non è che c'è una gran fantasia. Sì, no? Devo dire che poi non è che ci sono tante possibilità, perché poi le lettere finiscono, quindi pochi sono. Però insomma, ne hanno fatte 20, adesso non li ho contati i giochi che hanno fatto. Allora, l'ultima che hanno creato si chiama AA, è tra i primissimi posti nelle classifiche di iOS, Android e anche Windows Phone. È un gioco semplice, stupidissimo, sì. Semplicissimo. Allora, di solito sono i giochi facilissimi e semplicissimi quelli a fare grande successo. È molto semplice, adesso spiego come funziona. C'è una palla nera al centro, una sfera nera al centro, che ha una serie di raggi che ruotano. Okay. Questa palla gira. Tanto io sono già a livello 3. Allora, bisogna però ho già perso a livello 4. Schiacciando sulla palla, bisogna infilare dei nuovi raggi in mezzo a quelli esistenti, ma attenzione, senza colpire gli altri. Quelli che già hai infilato. Quindi ok. È semplicissimo. Il problema è che questa palla gira una volta in un verso, una volta nell'altro. E poi i raggi sono sempre di più. I raggi sono sempre di più, ma e poi va sempre più veloce. Quindi, vabbè, magari per radio si capisce poco, ma è facilissimo capire, un po' più difficile perché bisogna essere molto veloci. Perché devi praticamente sparare dove non hai già sparato. Stamattina io sono arrivato al livello 17. Sì, sì, è gratis, però. Ogni 10 secondi no, però molto spesso ci viene offerta della pubblicità e fin lì uno dice vabbè, ma mi guardo la pubblicità, però ogni tanto ti viene anche proposto la possibilità di sbloccare l'applicazione e non vedere la pubblicità. Un paio di euro costa questa opzione. Per uno molto appassionato. Se uno non vuole vedere la pubblicità, certo. Oppure se uno vuole sbloccare tutti i livelli, ma devi essere molto bravo, perché io sono arrivato al 17 e non so se ce la farò andare avanti. Se tu vuoi sbloccare tutti i livelli, 4 euro. Beh, devo dire che per un'app costa, però non è poco. Poi... allora, questa mattina io credevo di aver fatto un grande risultato, poi ho confrontato i risultati con... Nel mondo ci sono dei deficienti che giocano tutto il giorno, che avevo detto vabbè, lascia perdere. Ecco, cioè 10.000. Cose. Vabbè, io allora continuo a giocare solo a Candy Crush, ma anche quello è un po' per io matti. Non sono un grande giocatore, quindi... Però ti vedo appassionato. Per oggi sì. Allora Enrico, l'appuntamento con te il prossimo sabato al villaggio e poi 2024 sempre col podcast ormai adesso scaricate il anzi abbonatevi al podcast, abbonatevi, gratis. Abbonatevi al podcast, già che ci siamo, anche del sabato del villaggio di RadioTube, tutto sul sito radio24.it. Ciao Enrico, adesso ciao. Rimani con noi che parliamo di cinema. Parliamo sentiamo. Di cinema. Si poteva evitare se tu non avessi giocato con il fuoco. Scusami, è divertente. È incredibile che tu non capisca perché ci serve. Tony, forse non è il momento migliore. Ah sì? Davvero? Ti metti pancia all'aria ogni volta che qualcuno prova a ringhiare? Solo quando crea un robot assassino. Non è vero! Torniamo quindi a parlare degli Avengers, ne abbiamo parlato all'inizio della trasmissione cercando di capire il fenomeno Marvel, è il momento dei film in uscita questo fine settimana, quindi buongiorno a Franco D'Assisti. Ciao Marta, ciao. Franco, so che tu non sei però un fan di questo film, così sentiamo anche un parere un po' contro, diciamo. Sì, sì, devo dire che mi ha scaldato veramente molto poco questo Age of Ultron, come direbbero altri. Ha scaldato pochissimo anche il nostro Boris Sollazzo, che sentiremo fra poco la Rosa Purpurea, un film che per carità sicuramente mette in campo con abbondanza di mezzi tutti gli ingredienti che ci si aspetta, insomma i personaggi che uno dice ah eccolo, ah c'è anche lui, ma sì hai visto che c'è anche lui, ecco funziona un po' così come un album di figurine. Però se andiamo a parlare di cinema, se andiamo a parlare di resa rispetto alla spesa, e questo sarà un concetto che tornerà nel nostro collegamento, insomma molti attori veramente stanchi, alcuni si vede che non hanno proprio tantissima voglia di partecipare, lo fanno perché il cachet è importante. Capitolo che andava fatto, come sarà fatto anche il prossimo. Questi sono film totalmente impermeabili alla critica, possiamo dire bellissimo, possiamo dire uno schifo, ma incasseranno la stessa cifra. E però insomma a mio modo di vedere, io tornando a casa da qui avevo a casa mia figlia che vedeva Thor 2, che non è esattamente il più bello dei film dei supereroi, però è nettamente più bello di questo, ecco, per darvi l'idea dello spessore. Questo io l'ho trovato veramente un pochino troppo superficiale e troppo prodotto e poco cinema, e secondo me questo un po' fa la differenza. Viva le diverse opinioni, anche se appunto sappiamo che il pubblico ha affollato le sale e continuerà a follarne nei fine settimana. Assolutamente, ma figurati. Allora, passiamo a film che dobbiamo consigliare perché meno noti, magari basso budget, grande risultato, Franco. Sì, allora, invece film che hanno bisogno di, anche nel loro piccolo, insomma, e modestamente anche del nostro consiglio, del consiglio di tutti quelli che li hanno amati, ce ne sono un paio questa settimana. E a proposito del concetto spesa-resa, per esempio Short Skin, che è un'opera prima italiana, esordio alla regia di Duccio Chiarini. È un film veramente piccolino, io l'ho visto a Venezia lo scorso anno in totale anteprima perché faceva parte di un percorso che si chiamava Biennale College, cioè questi film sono stati fatti grazie ai soldi della Biennale di Venezia, e sono stati usati molto bene perché si racconta la storia di un ragazzo, Edoardo, 17 anni, che soffre di un problema fisico al pene, una malformazione che gli impedisce come dire di avere rapporti sessuali anche con se stesso soddisfacenti, soprattutto sono molto dolorosi, e questa cosa, questa short skin, questa pelle corta di cui si parla nel titolo, chiaramente pregiudica in un certo modo anche il suo passaggio della linea d'ombra, il suo passaggio a un'età davvero adulta. Gli amici spingono perché lui si butti, ma lui sa di avere questo problema, aiutato anche un po' dalla famiglia a cercare di risolverlo, troverà un modo per far sì che questo sia il lievito che porti, lo porti a diventare grande, a diventare adulto. È un film che nonostante abbia un linguaggio boccaccesco, come potete immaginare, 17enni in Toscana, è però sempre delicato, mai veramente volgare, e che racconta i nostri ragazzi, quelli della porta accanto, con una naturalezza davvero straordinaria. 83 minuti di puro cinema, bravo Duccio Chiarini, che sarà tra l'altro sarà nostro ospite alla Rosa Purpurea. Oggi è il 25 aprile, film che ne parlano? Ma sì, guarda, un film che in realtà parla appunto dell'occupazione nazista dell'Appennino tosco-emiliano c'è e racconta un episodio fino adesso sconosciuto. È sempre sorprendente vedere che ce ne siano ancora di episodi sconosciuti da raccontare. Si intitola Road 47, è un film brasiliano, cioè una coproduzione Italia-Brasile-Portogallo, ma racconta una storia veramente nuova, almeno per quanto mi riguarda, non l'avevo mai sentita, quella di un plotone di soldati brasiliani che durante la Seconda Guerra Mondiale combatterono appunto in mezzo alle nevi dell'Appennino tosco-emiliano, guidati a un certo punto da un italiano che è il volto di Sergio Rubini, che come dire organizzerà un po' queste truppe molto coraggiose, molto volitive, nel tentare di fare la loro missione. È interessante così come la storia ci si presenti al cinema con una profondità che nessun altro media riesce a darci. È un po' quello che succede questa settimana anche con Il figlio di Hamas, che racconta The Green Prince, che racconta una storia incredibile, quella del figlio di un leader di Hamas che diventa informatore dei servizi segreti israeliani, e grazie a questa coppia, l'agente segreto israeliano e questo figlio di Hamas, si salveranno tantissime vite. Ecco, sono storie. Tra l'altro noi avremo ospite in trasmissione Ratz Degan, il mitico bellissimo modello di una ventina d'anni fa della pubblicità, lo ricorderete, che nel frattempo è diventato un bravissimo direttore della fotografia. Ma questo per dire come il cinema ancora sappia raccontare storie che ti spiazzano e ti danno una visione della storia davvero diversa. Grazie Franco, appuntamento con te dopo il GR delle 18 con La Rosa Purpurea. Ciao. Grazie, a risentirci. Il sabato del villaggio. Buongiorno, rieccoci insieme con il sabato pomeriggio di Radio 24, il sabato del villaggio, dove il villaggio è il nostro villaggio globale. Questa, come sempre, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, serie TV, cinema, ma anche consumi, tecnologia, libri, insomma, i nostri liberi consigli per il fine settimana. E nella terza ora, dalle 17 alle 18, il nostro consueto appuntamento con RadioTube, come sempre, insieme a Daniele Bellasio, con tutta l'attualità della rete e dalla rete. Ma cosa succederà in questa seconda ora del sabato del villaggio? Anche questa settimana ci viene a trovare un amico, un ragazzo giovanissimo, 20 anni, è al primo disco, ma già un successo enorme in rete, il rapper Anagogia. I libri, questa volta il fenomeno Masha e Orso, che ha fatto innamorare i più piccini, e il premio Pulitzer annunciato questa settimana. Il food sharing, ma anche i concorsi a premi che ci risolvono la vita nell'appuntamento con le nuove tendenze. Ma prima, pochissimi giorni all'apertura di Expo. Ma cosa succederà i primi giorni e cosa potrà vedere chi è a Milano, ma anche in TV, il resto d'Italia? La Turandot, la Turandot di Giacomo Puccini, nella versione più rara, quella completata da Luciano Berio, aprirà ufficialmente l'Expo il 1 maggio alla Scala. Ma cosa sta succedendo in questi giorni? Anche perché ne sentiamo di tante, è pronto, non è pronto, io non so cosa immaginarmi, cosa c'è da quelle parti, cosa c'è nella zona di Expo, ma chi c'è stato per noi? Il nostro Gigi Donelli, ciao Gigi! Ciao cara Marta, buongiorno. Ormai Gigi, tu, cioè, vivi lì da mesi, avanti e indietro, cioè hai controllato, ma ti danno ogni tanto in mano un piccone, una pala, no? Mi danno soprattutto il caschetto, senza il quale non si va in giro, e le scarpe da cantiere, che in realtà uno ride, le scarpe da cantiere sono fondamentali, perché se ti cade sui piedi qualcosa di pesante, no, la scarpa da cantiere ti salva. Insomma, detto ciò, sì, i lavori ovviamente fervono, come si dice, e il grande quesito di tutti è sempre lo stesso: ma è pronto davvero? Non è pronto? Guarda, io solo oggi al ristorante ho sentito almeno 4 versioni diverse, e la cosa divertente, trovo che in realtà non c'è una versione, non c'è una verità su questo famoso cantiere, nel senso che è appunto una fabbrica, un cantiere, con passi avanti enormi che sono stati compiuti anche grazie a un mese di aprile che, a parte magari queste ultimissime ore, ha assicurato un meteo impeccabile e la grande macchina al lavoro. Beh, la grande macchina che riguarda soprattutto appunto tutti coloro che staranno a Milano, e molti cominciano a dire: ah, chissà, ci sarà più traffico, ci saranno abbastanza mezzi pubblici. Chi è nel resto dell'Italia intanto potrà assistere a due eventi in televisione. Il 30 c'è il primo concerto, il 30 in Piazza Duomo, in diretta su Rai 1, la cerimonia in apertura in anticipo, perché in realtà il vero inizio di Expo è fissato per il 1 maggio. Gigi, cosa succederà il 1 maggio? Sì, è quello istituzionale, 1 maggio, 10 del mattino. In realtà il programma non è stato ancora divulgato, ma lo sarà per forza, nel senso che il 1 maggio è il giorno, quindi Presidente del Consiglio, istituzioni e l'apertura ufficiale allora del grande evento. Visto che citavi gli amici appunto extra milanesi, ma vale anche per i milanesi, una cosa certa su Expo è che l'accesso è quello via treno metropolitana. Il traffico dovrebbe inevitabilmente peggiorare, i milanesi lo sanno bene, è già peggiorato perché ci sono stati ci sono ancora molti cantieri attivi, per cui accesso in quel senso. Poi spettacoli, beh, insomma, tu lo sai meglio di me, c'è un calendario davvero impressionante di almeno 600 tra mostre, eventi, concerti, e poi chiunque ha qualcosa da mostrare in queste settimane sta mettendo il timbro Expo, per cui tutto diventa, diciamo, estensione dell'Expo. Di sicuro i grandi protagonisti all'interno dell'Expo saranno le serate con gli spettacoli del Cirque du Soleil, l'abbiamo già raccontato, ma vale la pena ricordare che ci sarà un biglietto diurno e un biglietto serale, nel senso che l'idea è: magari venite a fare l'aperitivo e a passare la serata all'Expo, fate due passi, ed effettivamente utilizzando la metropolitana la faccenda diventa anche piuttosto semplice. Cioè, quindi praticamente la movida la sera all'Expo, ma è bellissimo. Ma infatti poi lo vedremo, sai, noi saremo lì a raccontarlo dal primo, il due, con i colleghi, le colleghe. Dal punto di vista teorico, insomma, diciamolo pure, queste cose qui diventa bellissimo se sarà vissuto, altrimenti sarà triste, no? Hai ragione. Credo almeno. Hai totalmente ragione. Abbiamo parlato di Scala, perché abbiamo detto il 30 la preapertura diretta su Rai 1. Il 1 maggio la Turandot alla Scala, che sarà invece visibile su Rai 5. Abbiamo incontrato il sovrintendente del teatro alla Scala, Alexander Pereira, che ci ha spiegato perché la Scala va a braccetto con Expo. Abbiamo investito molto perché crediamo che l'Expo è una unica chance per l'Italia, per il suo risorgimento, e tutto che la Scala può fare farà, perché è il secondo più famoso brand dell'Italia nel mondo, e una Scala forte dà il segno che l'Italia è forte. Si respira quasi un'aria da prima per questo 1 maggio, fuori e dentro il teatro? Sì, guardi, una prima nella Scala, specialmente una prima di una grande opera italiana, è sempre crea un'agitazione eccezionale. Ma alla fine noi cerchiamo di presentare Turandot a livello musicale, artistico, scenografico più alto possibile, e se riusciamo sarà anche una gloriosa apertura dell'Expo. Eccolo qua Alexander Pereira, sovrintendente della Scala, che giustamente dice: la Scala è uno dei marchi più famosi al mondo ed è giusto che l'uno e l'altro si diano una mano, Scala ed Expo. Gigi, ti chiedo solo di cominciare a dirci, secondo te, quale sarà il padiglione imperdibile, perché so che tu hai già curiosato qualcosa di bello, hai già visto. Beh, a costo di essere banale, direi quello italiano, che è decisamente un'opera imponente. Non a caso, infatti, se ne parla molto sui ritardi, no? Perché effettivamente le dimensioni, come dire, contano, e quindi in questo caso i 5 piani fanno la differenza rispetto a molti padiglioni che sono di fatto dei grandi stand, direi quello italiano. Beh, 5 piani, un palazzo, è proprio una cosa immensa. Allora Gigi, io già ti do l'appuntamento a sabato prossimo, il prossimo sabato del villaggio, ti chiamiamo sicuramente, anche perché sarai lì, avrai già visto il primo giorno dell'inaugurazione, quindi vogliamo sapere in diretta cosa sta succedendo. Sono molto molto curiosa. Al giorno 2, poi sarà divertente perché sarà il giorno successivo a quello delle istituzioni, quindi sarà il giorno in cui le persone vere cominceranno ad affluire all'Expo, e vedremo. Bello, io sono un po' emozionata, non lo so perché, sarò stupida, ma mi emoziona un po' quest'aria, questo Siamo clima. In due. Guarda, non lo so, saremo un po' ingenui, però è bello. Grazie a Gigi Donnelly per essere stato con noi, quindi alla prossima settimana. Ciao Gigi. Senz'altro, ciao Marta, grazie. Allora, per qualche giorno abbiamo ancora il fiato sospeso, poi sapremo cosa succede in questo Expo. Noi invece ci diamo un attimo di pausa perché è il momento di andare a sentire cosa sta succedendo su strade e autostrade, e poi saremo insieme per parlare di libri. BMW Free to Ride, il nuovo finanziamento per il tuo maxi scooter BMW. Info su bmwmotorrad.it. Vi presenta Il sabato del villaggio. Abbiamo detto il momento dei libri. Chissà cosa ci ha portato oggi la nostra Alessandra Tedesco. Oh, sei già sveglio? Sono passata perché devo fare colazione. Lo so, ma se vuoi mangiare un pesce devi prima riempire il mio pancino. Questo lo conosco, è un cartone animato che mi piace tantissimo perché me l'ha fatto scoprire un bimbo piccolo che si chiama Nicolò, è il figlio di una mia amica. Buongiorno Alessandra Tedesco. Cioè, adesso apriamo lo spazio cuore. Ah, cuore? Sì. Che messaggio vuoi mandare a Nicolò, Marta Cagnola? Ma no, ma perché io non avevo mai visto questo cartone animato, perché allora i miei nipoti sono troppo grandi, certo. Erano ancora della generazione di quando andava di moda Peppa Pig. Basta Peppa Pig. Adesso è superata, cara mia, perché anch'io mi sono dovuta documentare, perché il nuovo fenomeno editoriale del momento si chiama Masha e Orso. Tutti i genitori che hanno figli fra i 2 e i 4 anni staranno inchiodando in questo momento con la macchina. Oddio, ancora Masha e Orso? Sì, perché praticamente è nato naturalmente come cartone animato, come Peppa Pig, viene trasmesso da Rai Yo-Yo e da Dea Kids in Italia, e pensa che su Rai Yo-Yo è la serie che fa la più alta share in assoluto, mediamente il canale ha il 7,4% e Masha e Orso fanno l'8%, quindi insomma è un cartone animato molto molto seguito. Dal cartone, indovina un po'. Io vedo un sacco di librettini bellissimi. Facciamo sentire il libro alla radio, i libri di Masha e Orso. In Italia sono stati pubblicati dai primi di aprile, da Pasqua praticamente, da Fabbri Editori. Qui ho davanti 2 volumi, Come si sono incontrati, Masha e Orso, Orso giochi con me, e poi ci sono i libri naturalmente da colorare di Masha e Orso. Quindi se avete bambini fra i 2 e i 5 anni, sicuramente questa può essere la loro passione, perché magari hanno visto il cartone animato e hanno voglia poi di leggere le storie. Sono storie molto molto semplici. Cioè c'è una bimba che è quasi adottata da un orsone. Allora, è una storia sfigata, diciamola così. Vabbè, ma allora, grande classico dei cartoni animati, eh? Russo però, russo. Questa è una storia russa, è un cartone animato russo. In Russia i libri hanno venduto 5 milioni di copie. Oh. Una roba veramente, veramente incredibile. In Italia, dicevo, sono stati pubblicati da poco, però nel giro di 2 settimane ha raggiunto la tiratura di 500.000 di copie, che secondo me le venderanno, perché sono sempre, occupano 4-5 posizioni della classifica dei libri per bambini e ragazzi. Dicevo, la bambina è un po' sfigata perché è orfana russa, cioè se vedi la faccina ti fa un po' tristezza. Tenera. Io quando l'ho visto ho detto oddio che orrore, poi devo dire ho visto le puntate su internet e mi sono ammazzata dalle risate. Vuol dire che anch'io sono nella fascia 2-4 anni, e questo è consolante. E lei appunto è una bambina orfana e si prende cura di lei questo orso, che sembra un po' burbero, che si fa i fatti suoi, però alla fine è molto tenero con lei, le prepara da mangiare, lei è un po' pesante ogni tanto, giochi con me, è definita come una vera peste, insomma. Però è un libro assolutamente consigliato per tutti quelli che hanno bimbi dai 2 ai 5 anni, diciamo, poi iniziano un po' a scocciarsi di Masha e Orso, ma prima sono assolutamente affascinati. So che anche ha vinto un premio importante. Sì, quest'anno al Kid Screen Award di Miami, l'ho pronunciato bene? Ah, perfettamente. Ah, vedi, sto migliorando con l'inglese, che è praticamente una delle manifestazioni di riferimento per, diciamo, la fiction per bambini e ragazzi. Ha vinto il premio come Best Animation Animation nella categoria Creative. Questo è il cartone animato. I libri, ripeto, stanno veramente scalando le classifiche in Italia, in Russia non ne parliamo, ma anche nel resto d'Europa. Di premio in premio questa settimana si è parlato tantissimo del Pulitzer, ma cosa ci puoi dire del libro che ha vinto? Perché l'anno scorso il libro che vinse il Pulitzer è diventato il caso dell'anno, quindi noi ci prepariamo già per capire se siamo di fronte a un nuovo caso. Noi normalmente in questa trasmissione parliamo dei libri di cui si parla già di questo libro che ha vinto il Pulitzer, ma soprattutto se ne parlerà, quindi segnatevi il titolo per fare bella figura: ho letto già il Pulitzer. Per questa sera l'aperitivo. Ho comprato il Pulitzer. L'anno scorso l'aveva vinto Donna Tartt con Il Cardellino, quel tomo di 900 pagine, adesso non mi ricordo neanche più, che in Italia ha venduto più di 100.000 copie, che vi assicuro per i periodi attuali dell'editoria è un risultato eccezionale. Gran parte di queste copie sono servite per fermare Sì, nel senso che è un libro molto acquistato, e poi bisogna vedere quanti l'hanno letto. C'era stata una ricerca tempo fa sugli reader per vedere quanti erano andati avanti nella lettura. Insomma, era un libro molto acquistato, ma molto anche abbandonato poi in corsa, perché comunque 900 pagine sono una bella sfida. Il Pulitzer di questa è un filino più agevole, non tanto. 500 pagine, la metà, insomma, quindi la metà possiamo fare. L'autore Anthony Doerr, e il suo primo libro che viene tradotto in italiano si intitola Tutta la luce che non vediamo, pubblicato da Rizzoli. È una storia drammatica, lo diciamo subito, è una storia che ha a che fare con la Seconda Guerra Mondiale. Veramente negli ultimi anni le storie che hanno a che fare con quel periodo vanno veramente molto molto di moda, al di là degli anniversari, Seconda, Prima Guerra Mondiale, però sono delle storie che piacciono molto. Diciamo che si seguono due vicende parallele. 1934, Parigi, c'è una bambina di 6 anni alla quale viene diagnosticata una malattia degenerativa, insomma è destinata a diventare cieca. La vediamo 6 anni dopo nella Parigi occupata dai nazisti, così lei è costretta a rifugiarsi con il padre ed alcuni parenti in una casa sul mare. Qui ormai è diventata cieca e impara attraverso il rumore del mare, attraverso quello che sente, a conoscere la vita e la realtà. Dall'altra parte seguiamo la vita di un ragazzino, Werner, che sta in un orfanotrofio nella Germania nazista, e ha una caratteristica. Ha una particolare abilità nel riparare le radio, e quindi in quel periodo, naturalmente periodo di guerra, in cui le radio erano fondamentali, verrà utilizzato dai nazisti nelle missioni appunto per scovare i partigiani. A un certo punto questi due destini si incroceranno, di questa ragazzina e di questo ragazzino, ma non vi diciamo come e in che modo. È sicuramente un romanzo doloroso e commovente. Alessandra, mi verrebbe da dire un bestseller sicuro, ma i Pulitzer diventano sempre bestseller? Non sempre, almeno da noi in Italia, nel senso che magari negli Stati Uniti sì, da noi in Italia magari meno, però fra quelli più famosi, diciamo, degli ultimi anni, ricordo Olive Kitteridge, ti dice qualcosa? Ah, beh, straordinario. Elizabeth Strout, dalla quale è stata tratta anche una serie televisiva mandata in onda in Italia da Sky, e ne avevamo parlato. Il Tempo è Bastardo di Jennifer Egan, pubblicato da Minimum Fax, che vi consiglio. E poi ce n'è uno che avevo scovato alla Fiera del Libro, veramente del 2000, sì, perché del 2000 non mi occupavo ancora di narrativa, quindi lo compravo da lettrice, L'interprete dei Malanni di Jhumpa Lahiri, una scrittrice indiana che ha vissuto negli ultimi anni anche in Italia, e era una raccolta di racconti bellissima pubblicata da Marcos y Marcos. Beh, intanto abbiamo trovato una fan in regia, perché appena detto Jennifer Egan qualcuno si è illuminato dall'altra parte del vetro. Consigli, vedo che hai una copertina molto bella. Guarda, questo è un consiglio che veramente oggi ti porto col cuore, perché in questa settimana abbiamo visto purtroppo le notizie drammatiche di cronaca, il barcone, i migranti, i morti, sono state veramente delle notizie che ci hanno addolorato moltissimo, e il mio pensiero è andato subito chiaramente a un libro di narrativa che parla di questo. È un libro dell'anno scorso, Non dirmi che hai paura, di Giuseppe Catozzella, pubblicato da Feltrinelli, ed è la storia verosimile di questa Samia, di questa atleta che aveva anche corso alle Olimpiadi di Pechino. La storia è molto nota, se n'era parlato molto di questo libro. Il suo viaggio dura mesi e quindi si vede veramente l'orrore di questi veri e propri schiavisti, e riesce ad imbarcarsi dalla Siria per arrivare in Italia, e però morirà appunto durante questa traversata. E questa è la ricostruzione verosimile dei suoi pensieri attraverso anche le mail che aveva inviato a sua sorella. importante adesso leggere questo libro che ha sulla copertina, dicevo, una bellissima farfalla. Alessandra, voltiamo pagina. Prima ho detto importante leggere questo libro, ma è importante in generale leggere. E io volterei pagina, e quanto mai appropriata questa espressione, con un brano musicale. Chi ti ha dimenticato non si sa se ti ha lasciato andare o se in realtà ti sta cercando ancora nella borsa tra patente e occhiali. Hai dedica condata, sei un regalo. Beh, le voci di Samuele Bersani e di Pacifico, io adoro entrambi. Perché proprio loro due? Perché questo brano? Questo brano è dedicato al libro. Non so se si capiva dalla frase che abbiamo ascoltato, sì. Però è dedicato al libro. Ricordiamo che c'è anche la partecipazione di Francesco Guccini, che canta proprio l'ultima frase, l'ultimo fraseggio di questa canzone. Questa settimana c'è stata la giornata mondiale del libro, il 23 aprile c'è stata l'iniziativa hashtag Io leggo perché, c'è chi ha detto io leggo per questo, questa va bene, bellissima, ci sono stati messaggeri che hanno distribuito in giro dei libri gratuiti, ma la cosa che mi fa piacere segnalare agli appassionati, anche i non appassionati, che agli appassionandi di lettura e di libri, e che di fatto dal 23 aprile si è aperto il maggio dei libri. Che cos'è? Ci sono un sacco di iniziative in tutta l'Italia, dalle più simpatiche alle più polverose, per tutti i gusti, per i piccoli e per i grandi. Quindi andate sul sito ilmaggiodeilibri.it, è organizzato molto bene, ci sono le regioni, io clicco sulla regione dove mi trovo in questo momento, vedo i paesi, le città dove ci sono delle iniziative, vedo se c'è un'iniziativa che mi piace, un reading, una presentazione di un libro, una lettura, ci partecipo. L'unica cosa che non mi piace del maggio dei libri è lo slogan che hanno scelto un po' di tempo fa, che dicono leggere fa crescere, e no, no, ma poi scusami, nessuno vuole crescere, ma poi io e te abbiamo letto tantissimo, siamo rimaste piccine, e non... beh, io al di sotto del 1,60 m, quindi mi sa che qua c'è qualcosa che è sbagliato in questa come dire, in questo slogan leggere fa crescere. Ma però il maggio dei libri è bello, divertitevi, che meraviglia. Alessandra, di consiglio il consiglio, voglio l'ultimo consiglio, il cacciatore di libri, quando e di cosa parli? Ta-da-da-da. Stasera alle 22.05 ci sarà ospite con noi Patrick Fogli, che è un noirista veramente da tenere d'occhio, e con un romanzo che fa un'angoscia, perché potrebbe essere verosimile, parla di terrorismo. Ho già paura. Alessandra, con te invece l'appuntamento al prossimo sabato del villaggio, sabato prossimo. Bacetti e libri per tutti. Dimenticato non si sa se ti ha lasciato andare o se in realtà ti sta cercando ancora nella borsa tra patente e occhiali. Hai dedica condata, sei un regalo col prezzo ben nascosto dietro un adesivo, e l'aria di chi non ha un letto fisso ma si appoggia in giro. Beh, ma è delizioso questo brano di Pacifico e Samuele Bersani, io poi li adoro entrambi, è davvero davvero delizioso. Abbiamo parlato di libri, tra poco invece il nostro appuntamento con i consumi e le nuove tendenze, ma poi avremo con noi anche un amico, un ragazzo giovanissimo che è al suo esordio discografico ma è già famosissimo in rete, quindi vale la pena rimanere insieme a noi con il Sabato del Villaggio. Adesso una brevissima pausa, poi saremo ancora insieme. Il sabato del villaggio. E nel nostro villaggio globale, il nostro tutorial per un bel weekend, i liberi consigli per il fine settimana, la nostra guida per orientarci negli acquisti mentali, in tutte le nuove tendenze in fatto di musica, TV, cinema, ma anche tecnologia e libri, è il momento dei consumi. Kids are starving in Japan, so eat it, just eat it. Qualcuno avrà detto: ma non è Beat It? No, questa è Eat It di Weird Al Yankovic. Qualcuno se la ricorderà. Eat It, mangialo. Perché con la nostra Maria Luisa Pezzali oggi parliamo di cibo, no? Maria Luisa, buongiorno. Ebbene sì, buon pomeriggio Marta, un saluto a tutti. Sì, parliamo, il cappello generale è quello di una delle tendenze che è un po' il mio pallino di quest'anno. Gli ascoltatori di essere e avere lo sanno, mi riferisco alla sharing economy. In realtà non sono io a dirlo, perché è un grande macro trend economico e di consumo, nonché quasi ormai un fenomeno di costume se pensiamo a fenomeni come Airbnb. Oggi però in particolare parliamo di food sharing, cioè del cibo, sì, di condivisione del cibo del frigorifero addirittura. Tra pochissimo capiamo perché. Iniziamo ad elencare le situazioni tipo che fanno da premessa questo fenomeno, situazioni che tutti prima o poi abbiamo vissuto, Marta. Il frigorifero da svuotare prima delle vacanze. Ah, certo. Si cerca di programmare la spesa per i giorni che restano, però magari non ci si riesce mai proprio. Difficile essere proprio matematici. Esatto, precisi. Sì, resta sempre qualcosa. Il cibo avanzato da una festa o da una cena a casa propria. Sì. Non sempre si può conservare, insomma. Sì, diciamo. E non sempre si può finire, perché dopo un po', dopo un po' di giorni, insomma. Dopo un po' di giorni che vai avanti a tartine. Esatto, anche basta. Una spesa nel weekend troppo abbondante, si sono fatti male i calcoli e poi inizia la settimana tra pranzi di lavoro, inviti, cene fuori casa, insomma alla fine i prodotti freschi comprati sono molti di più di quelli di cui abbiamo effettivamente bisogno. Ebbene, e buttare brutto comunque. No, buttare nella brutto. Spazzatura non si può più fare, non si deve fare. Tra poco tra l'altro siamo ormai alla vigilia di Expo, il tema dell'antispreco è il tema dominante in questo momento nei consumi e anzi ribadiamo assolutamente il messaggio. Se i vicini di casa a cui regalare le cose non bastassero, perché anche quella è un'altra fonte molto... Io lo faccio, assolutamente, sì. Ci viene in soccorso il web con le piattaforme appunto della sharing economy che si stanno moltiplicando, mettono in contatto chi offre e chi cerca cibo in modalità appunto antispreco. Il fenomeno è nato in Germania, foodsharing.de, appunto parliamo della Germania, è un sito che conta ormai quasi 60.000 utenti, ma ora ci sono anche delle interessanti esperienze in Italia. Scambiacibo.it, una dispensa collettiva in pratica dove tutti, per tutti intendo privati, aziende, associazioni, possono prendere o lasciare alimenti che vengono definiti ARS, l'acronimo usato, ad alto rischio spreco. Mi piace moltissimo. Bello. ARS abbiamo cosa imparato. Si deve fare? Come funziona? Ci si deve iscrivere, si fotografa il cibo che si vuole condividere, inserendo tutte le informazioni del caso, tra cui la data di scadenza, e l'alimento compare geolocalizzato sulla mappa riferito appunto al nostro profilo. Gli interessati possono poi contattarci e quindi mettersi d'accordo con noi per il ritiro. Dice anche divertiti con noi, perché alla fine secondo me si fanno anche delle conoscenze scambiando come il cibo. Come tutte le piattaforme della sharing economy, il tasso, il livello di socialità conta moltissimo. Non partecipare sarebbe uno spreco, leggo sul sito. Esatto, bellissimo. iFoodShare.org è una piattaforma online sempre che permette la condivisione anche di grossi quantitativi in questo caso, quindi possono aderire non solo i cittadini ma anche insegne della grande distribuzione, piccoli esercenti e aziende agricole. Ad intercettare subito il trend anche Kijiji.it, che è il sito per gli annunci gratuiti del gruppo eBay, recentemente ha introdotto una nuova categoria, gastronomia, aprendola appunto anche ai privati con lobby della cucina oppure a chi ha un orto e non riesce a consumare tutta la verdura e la frutta. Rido che perché coltiva. Abbiamo sempre avuto un orto vicino a casa, io ho mangiato kiwi a volte per mesi, perché invece si può, magari qualcun altro ha piantato un'altra cosa. Ah, fantastico. E poi molto interessante, questa è veramente nuovissima, mamau.it, è il primo takeaway tra privati. Ci si scrive, Marta, si indica che cosa si ha intenzione di cucinare cucinare quante porzioni si mettono a disposizione. Una teglia di lasagne, una torta al cioccolato, ognuno insomma avrà la propria specialità. In questo caso ci si guadagna, quindi diventa una vera e propria forma di reddito integrativo. Ce lo siamo fatti spiegare da una delle fondatrici che abbiamo incontrato recentemente, Michela Franco. Sentiamola. Il servizio prevede che i cuochi, che sono appassionati di cucina oppure professionisti che noi selezioniamo per garantire qualità e sicurezza, si registrano sul nostro sito. Li selezioniamo e loro pubblicheranno quelli che sono i piatti quando li preparano. Dall'altro lato, il cliente che ha voglia quel giorno del piatto di lasagne verifica se in prossimità della sua casa c'è un cuoco che le ha preparate, l'orario per il ritiro, e attraverso il sito prenota e definisce l'orario di ritiro del piatto. Per cui la transazione avviene sul sito e il cliente al momento deve andare a prendere il piatto a casa del cuoco, ma in un futuro implementeremo anche il servizio di delivery. Ho già visto sul sito, mentre parlava la tua intervistata, la teglia di lasagne. Sono già pronta a ordinare la teglia di lasagne. Quello è un must, assolutamente, considerando quanto ci si mette a farle. Sì, no, non sono la mia specialità. Momento delle strategie anticrisi, Maria Luisa. Sì, oggi vorrei parlare delle strategie anticrisi messe in atto dalle insegne della grande distribuzione, oppure dalle singole marche, non solo nella politica dei prezzi, di cui abbiamo parlato tante volte, ma anche in quella dei concorsi. Leva di marketing tradizionale da sempre. Se prima però ci offrivano l'auto da sogno, ricordi? Ah, mi ricordo, la pelliccia, le crociere. Sì. Beh, qualcosa è cambiato, la crisi ha cambiato molto. Ora nell'ordine ci pagano la spesa per i prossimi 15-20 anni, ci aiutano a pagare il mutuo, insomma, non male. Questo è il trend, ce lo facciamo raccontare come sempre dalla direttrice di Markup Egidio Week, Cristina Lazzati. Ciao Cristina. Buon pomeriggio a tutti. Buon Ciao pomeriggio. Cristina. Ciao. Eccoci qui. Effettivamente i tempi sono un po' cambiati. Infatti, se nel 2011 Autogrill regalava una settimana di vacanza per la vita in una multiproprietà, in questo momento diciamo che si punta delle cose un pochino più come dire, vicine. E infatti Manzotin, fino al 31 dicembre 2015, acquistando ovviamente un prodotto della gamma, ti permette di partecipare a un concorso in cui verrà estratto il tuo mutuo, o meglio, più che il tuo mutuo, verrà estratta la possibilità di estinguere il mutuo fino a 100.000 euro. Se si è di più, no, si arriva a 100.000 euro. Beh, però... è che non è male. Nel caso in cui invece un mutuo uno non ce l'ha e vince, non è sfortunatissimo, anzi, perché i 100.000 euro li avrà con una fornitura di diamanti, quindi insomma, che deve essere un bel vedere. Migliori amici delle ragazze, si sa, ecco, quindi. Esatto. Come bene primario anche quello. Sì. Bene, invece a questo punto la casa è a posto, se la giornata è molto fortunata proseguiamo da Lidl e lì c'è il concorso Vinci la spesa per 20 anni, 50 euro alla settimana per una spesa che dura 20 anni, questo è il vincitore. Se si arriva a secondi, se la si avrà per un anno, i terzi per un mese e comunque insomma non è male nemmeno quello. Sempre per la spesa, con un po' meno lunghezza, lo fa anche Nivea, che con i ticket compliments mette in palio 10 premi da 500 euro. La cosa particolare in questo caso è che sono 500 euro a componente della famiglia. Quindi comprando due prodotti Nivea, tenendosi sempre lo scontrino, andando poi sul sito, mi raccomando, tutte queste cose ci vuole lo scontrino, il packaging del prodotto e c'è sempre un sito relativo. Ecco, nel caso di Nivea, con due prodotti di cui un solare, si può andare sul sito di Nivea.it, digitare tutte le cose, se si vince sono 500 euro moltiplicato per quanti sono, massimo 6 ovviamente, non si può allargarsi troppo. Bene, la casa è a posto, la spesa anche, è sempre giornata fortunata, benissimo. Quella stessa sera, se siete single, potete andare alla UNES o agli U2 che partecipano a questa iniziativa molto simpatica dove al massimo si può vincere un fidanzato, una fidanzata, un marito o una moglie, perché infatti c'è la spesa dei single. i giovedì nei supermercati convenzionati ad insegna 1 e su U2, gli indirizzi li trovate sulla spesa dei single.it, se ci si mette un bel fiocco rosso sul carrello e ci si aggira per il supermercato, incontrerete altri col fiocco rosso che sono disponibili a farsi due chiacchiere e magari poi andare a prendere un aperitivo. Ah, quindi il marito pronto e impacchettato, la moglie, insomma. Sì, ovviamente tengo a sottolineare, così come me l'hanno sottolineato i UNES e U2, chi non ha il fiocco rosso non deve essere tampinato, per cui mi raccomando, solo quelli col fiocco rosso. E poi posso dire che tu guardi uno che ha il fiocco rosso, già guardi nel carrello, così secondo me capisci che tipo è a seconda della spesa che ha fatto. Beh, dimmi potrebbe cosa essere... compri e ti dirò chi sei. Potrebbe essere un'ottima indicazione, no? Infatti, anche perché se voi andate sul sito La spesa da single, ci sono un sacco di accorgimenti, al di là del fiocco rosso, per riconoscere coloro che sono single, appunto, monoporzioni, tutto per lei, solo tutto per lui, solo schiuma da barba o solo profumi e balocchi. Beh, in linea di massima si parla di una single o di un single. Quindi, andando su questo sito, che devo dire è molto carino, mi sono molto divertita pur non essendo single, troverete un sacco anche di indicazioni e di spinte ad abbordare o farvi abbordare al supermercato. Beh, bellissimo. Io vi devo confessare che una volta alla cassa ho visto un ragazzo che aveva nel cestello fragole, champagne e profilattici. Gli ho fatto i complimenti perché ho detto, la serata, ragazzi, era pronta. La serata era perfetta. Grazie Cristina per essere stata con noi. Ciao. Grazie Cria, a presto. Ciao, buon pomeriggio. Maria Luisa, invece con te l'appuntamento ancora domani. Domani alle 15 come sempre. Un saluto a tutti. Ciao Marta. Grazie Maria Luisa e anche sabato prossimo con Sabato del Villaggio. Il Sabato del Villaggio. E al Sabato del Villaggio, ve l'ho anticipato, è il momento di un amico che ci è venuto a trovare. Uno, no, sono il numero 4. Due, no, sono il numero 4. Tre, no, sono il numero 4. Come? Mi sono sempre sentito diverso dagli altri. Mi perdo tra sguardi, quanti traguardi che c'ho davanti. È soltanto 20 anni, da piccolo a grande. Per essere grande agli occhi del pubblico, anagogia. Fine 18 è un'agonia, poi passano subito. Questa è la mia testimonianza di quello che ho creato. Mai stato sul podio, ho sempre sbagliato. Dammi dello sfigato sulla mia vita. Tu che cazzo parli? È la legge di Murphy e le quote al quadrato. Alle 3 di notte, in mano calici di fuoco come Harry Potter. Il rap si fotte, alle 5 il male in testa che riparte. Mi sfogo su casse rullante come Travis Barker. Passo dal parlarti alle offese, è la mia vita. È giovanissimo, ha poco più di 20 anni. È al suo primo album che esce martedì, esce tra pochissimo. E io sono contenta di averlo qua in radio. Non solo perché è appunto un ragazzo giovanissimo, ma anche perché ha un nome. Io sono impazzita per questo nome d'arte. Ti devo chiamare Marco o dico buongiorno Anagogia? No dai Marco, buongiorno Marco. Anagogia, io ho letto che è un nome d'arte che hai scelto quando eri bimbino. Vabbè che lo sei ancora, però eri un bimbo. Sì, avevo 11 anni, 12. Più che scelto, mi ha scelto lui. Nel senso che io avevo scelto di fare musica e ovviamente essendo la musica un'arte e io sarei dovuto diventare quindi poi un artista, non mi sarebbe piaciuto che il mio vero nome sarebbe diventato poi il nome d'arte, perché volevo tenere le due vite separate, un po' come un'altra personalità. Ci ho pensato, a una certa mi è venuto in mente solo che più ci pensavo più non avrei trovato un nome che mi sarebbe piaciuto. Verissimo. Ho preso un vocabolario, l'ho aperto ed è venuto fuori Anagogia. Ah, l'hai aperto all'inizio, l'hai aperto sulla... già sbogliato nell'aprire il vocabolario, capito? Quando gli altri bambini scoprivano le macchinine, tu scoprivi già le rime? No, beh, io quando gli altri bambini... iniziavano a farsi giretti al parchetto con le bici e andare con le prime ragazzine, io ero a casa e facevo musica. Beh. L'ho detto, sei giovanissimo, 21? 20, sì, 21 quasi 22. 21 quasi 22. Per la gente devi essere alla moda, io per la gente voglio essere come una droga. Tu parli di droga, parli... Io quando ho letto i titoli ho detto droga, bondage, ma come faccio a parlare? Cioè, delle robe estreme. Poi invece però c'è sempre... però è sempre la musica. No, in realtà, vedi, è proprio questo che io voglio fare capire all'ascoltatore, cioè... e la prima impressione è quella che è, perché comunque stai prendendo già un disco che si chiama Pillole, poi inizi a sfogliarlo, seconda traccia Panic Room, terza traccia Droghe. Già i titoli iniziano. Io ho letto i titoli. Però poi hai capito, senti, ad esempio Droghe è una canzone che parla sì di droghe, ma non è una visione delle droghe, del mondo, della gente che si fa le droghe, della droga che è bella o è brutta. È semplicemente le droghe, perché a questo mondo è pieno di droghe e comunque sono sempre in vista e vengono usate metaforicamente per le situazioni di vita generali. Ad esempio, questa musica eroina perché me la sento nelle vene. E quindi è la che è una metafora, non vuol dire che mi faccio di eroina, capito? No, anche perché sei al tuo primo album, l'abbiamo detto, esce martedì, però tu sei già molto noto, perché poi i ragazzi adesso conoscono la musica attraverso la rete. Beh, ora attraverso... c'è il potere del web. Sì, ti senti la responsabilità, cioè, hai 21 anni, ma ti ascoltano anche quelli di 14, 15, 13, insomma, è anche delicato quello che tu dici, perché ti stanno a sentire. Un giovane magari può non condividere quello che dico, però si rispecchia nella mia dialettica, nel senso il come parlo. Magari un genitore gli può dare fastidio che ci sia una parolaccia all'interno di un pezzo. Ce e quindi... ne sono tante di parolacce, io che non le dico certo. Ce ne sono un sacco di parolacce. No, un sacco no, dai. Diciamo che io non inserisco le parolacce per una voglia di inserire la parolaccia. Cioè, quando... il punto è quando una persona dice le parolacce, quando ha bisogno di sfogarsi, quando è arrivato proprio al limite e non ha più controllo. Quindi, quando all'interno dei miei testi vi si trovano delle parolacce, perché l'emozione, il contenuto è così forte che non può essere spiegato in un'altra maniera. I rapper si amano o si odiano? Perché fa sempre notizia il dissing, cioè quando se le tirano addosso l'uno con l'altro. Oggi e sui social network oggi mi stanno bombardando di domande sui dissing. Va a finire che vado a casa e faccio un dissing contro a qualcuno tutti. Esatto. Però ci sono anche, invece nel tuo album ci sono tante collaborazioni, cioè sì, beh, Cerari, in realtà cioè, ce ne nel sono rap tante. In generale ci sono le collaborazioni, perché comunque il rap, a differenza degli altri generi, è uno dei generi con maggiori collaborazioni, nel senso noti molte meno collaborazioni magari in un disco di Neck o di Ligabue, quando invece vai a prendere in mano un disco di Fabri Fibra ci sono un sacco di collaborazioni. Il fatto dei dissing è giusto che ci siano, secondo me è una cosa divertente, nel senso è un po' come l'esempio di te al lavoro, quando vorresti tirare troppi nomi al tuo capo ma non puoi farlo. Quello rappresenta il pop, secondo me. Essere con la bella faccia, però odiare le persone. Invece il rap viene lì davanti e ti dice: ma cosa vuoi? Eh sì, i rapper se lo dicono in faccia. Bella, mi piace questa. C'è un minimo di spontaneità in più degli altri generi nel rap, diciamo. C'è voluta un po' di pazienza prima che uscisse questo disco. Appunto, tu sei già molto noto presso i ragazzi. Ti ha insegnato qualcosa a dover aspettare? Sì. Una cosa che avevo già capito da tempo, è odioso. Aspettare è veramente odioso. Poi per me, che sono una persona che veramente, se potessi andrei, io solitamente sono abituato a fare musica la notte, e se fosse per me veramente andrei in studio alle 11 di sera, mezzanotte, fino alle 5 di mattina, e poi alle 6 e mezza della mattina, 7, mentre vado a dormire, già starei pubblicando quello che ho fatto nella notte. Però non è possibile, e grazie a Dio non è possibile, anche perché la musica sta durando molto meno. I dischi hanno una durata media di 3 mesi, poi esce già l'album di qualcun altro, hai già perso interesse verso quello Anzi, precedente. Anzi, i ragazzini forse non si accorgono nel nemmeno dell'album, poi. Perché hanno le tracce, hanno lo shuffle. Esatto, hanno... ma poi hai capito, il pop almeno è un genere che è sempre andato col disco in copia fisica, venduto nei centri commerciali tramite le etichette. Il rap invece, che è molto un genere di autoproduzione, dove la maggior parte dei dischi vengono messi in free download sul web. Ciao, immagina quanti dischi può ascoltarsi un ragazzino al giorno d'oggi. Già hai tutto il passato da doverti ascoltare se vuoi, cosa che non fa nessuno. Che però da come che dici però tu bisognerebbe fare. Vabbè, assolutamente, cioè se volevano, quello che dico sempre io è: ti piace il rap? Sì, allora secondo te senza il jazz esisteva, senza il soul esisteva, senza il funk esisteva? No. Quindi ai ragazzi che vorrebbero fare rap tu consigli questo? Io ai ragazzi che vogliono fare rap non consiglio nulla, perché comunque il rap è un genere molto intuitivo a differenza del resto. è un genere che va vissuto, ci devi proprio crescere dentro, non puoi arrivare con il foglietto preparato e dire adesso faccio questo, questo, questo e questo e sicuramente mi tornano questo, questo e questo. Però un consiglio invece a chi vuole fare musica che posso dare è: non vi bloccate mentalmente su ciò che vi piace, nel senso che quello che vi piace sicuramente è nato da qualcosa che non vi piace. Bella questa cosa, quindi ascoltare tutto, scoprire, imparare. Sì, io l'esempio maggiore che porto è che a me il rock non piace nemmeno un po', e è una cosa abbastanza pazzesca, penseranno molte persone. Senza rock non esisterebbero tre quarti dei generi al mondo, quindi figurati, però eppure a me il rock non piace. Però ho ascoltato i Queen, ho ascoltato gli U2, ho ascoltato i Nomadi in Italia, li ho ascoltati, cioè, capito? So di cosa parliamo. Poi è chiaro che a casa da solo non mi ascolto quella musica. Però se mi chiedi qualcosa, non sono un professore in materia, ma so di cosa stiamo parlando, giusto? Almeno quello, capito? Se ti piace fare la musica, penso che ti devi un attimo mettere nell'ottica che la musica è troppo vasta per fermarti su un genere. I ragazzi ti stanno aspettando tantissimo perché l'ho visto in rete. Grazie Marco. Grazie a voi. Fammi stare calmo almeno questa notte, che la tensione sembra che mi renda le ossa rotte. Perché i problemi quando arrivano, arrivano a flotte. Non ho mai visto le persone ad aspettare pronte. Faccio cerchi di fumo per ingannare il tempo, mentre cerchi qualcuno che ti faccia ad esempio. Ma non trovi nessuno e resti chiuso dentro a questo buio dove vedi a stento. Per questo non capisci chi c'è, niente luce, solo buio, come in Pitch Black. Trovi la verità in quello che scrivo, perché racconto il destino. Qui è tutto black come Sirius, yeah. Mi trasformo come Sirius Black, per combattere coi mostri come Sirius Sam. Dentro un mondo di apparenza dove lo stress, per quante volte ti si ripropone, sembra che causi la dipendenza. Ma io... Eccoci qui, era Anagogia. Mi piace parlare con questi ragazzi molto giovani, anche se adesso in studio ne ho uno un filininino meno giovane. Ciao Daniele, non, però non ti posso parlare, non ti posso guardare perché stai già andando in diretta con Periscope. Io non potevo schiacciare il pulsante del microfono perché tenevo l'i-coso. Ecco, su Periscope ha solo quella cosa lì. Allora, fammi in questi ultimi secondi prima del GR24 fare i ringraziamenti, perché poi ci distraiamo e ci dimentichiamo. Grazie a Daniele Bonamici che mi ha dato una mano a confezionare il tutto, a Valeria Bernardi e Andrea Roccabella in regia. Noi ci risentiamo tra poco perché chiudiamo il sabato del villaggio, ma apriamo RadioTube tra pochissimo.